In realtà, per quanto riguarda la rete 7 a Roma, siamo arrivati molto in ritardo rispetto a quello che c'era l'organizzazione più a livello nazionale. Abbiamo fatto un primo vero e proprio incontro la settimana scorsa, quindi stiamo parlando di questo per il momento. E questo veniva anche in fondo da una difficoltà che con le altre persone con cui abbiamo iniziato a ragionare questi temi sulla città di Roma ci sembrava di avere davanti, cioè rispetto a territori come Napoli che iniziavano a vedere un fenomeno in crescita in questo momento che si installava su un centro popolare, o rispetto a territori come Venezia e Firenze che avevano comunque una tradizione di ragionamento, di discorsi, di lotte sui temi dello sfruttamento del centro storico e della turistificazione, a Roma ci sembrava di confrontarci bene o male con diciamo un depauperamento della popolazione del centro storico, una sua espulsione che si era compiuta ormai molto tempo fa, e nella difficoltà anche per quelle che hanno le biografie delle persone che insomma hanno iniziato a ragionare su queste cose giù, nell'intercettare invece delle questioni che riguardassero la possibilità di accesso alla casa nei confronti della turistificazione, perché insomma nessuno di noi abitava al centro e c'era difficile intercettare. Invece, con nostra sorpresa, in realtà le cose sono meno semplici e semplicistiche anche di come ce l'eravamo dipinte, per cui abbiamo iniziato a capire come poter aggredire quel fenomeno su Roma e come e già dalla prima riunione si compongono molte cose che poi riguardano i vari temi di cui la rete 7 si occupa, perché sono venuti a parlare assieme a noi persone che lavorano nel turismo, persone che hanno un lavoro precario nel turismo, vecchi abitanti dei rioni storici, persone che tentano invece di analizzare anche da un punto di vista dello studio quelle che sono le dinamiche della rendita tramite Airbnb, specie nei quartieri di cintura, i quartieri degli studenti, di come si installasse, un po' come dicevi tu prima, un tipo di trasformazione in senso turistico di quelli che sono poi i quartieri più propri della vita diciamo giovanile della città. Quindi insomma in realtà c'è tutto un grande lavoro da fare che stiamo cominciando, e però insomma dentro anche alla connessione con i temi della rete in maniera generale. Poi io non ho capito una cosa, visto che ho preso la parola a questo punto, la dico. Secondo me dovremmo provare magari domani, c'è un'assemblea plenaria, no? In cui oltre a ragionare del lavoro di approfondimento che avremo fatto domani, capire un po' come vogliamo funzionare, perché siamo arrivati al secondo, terzo incontro e dovremmo darci un po' una rotta di navigazione, niente di particolarmente stretto o definito, ma almeno capire in che direzione vogliamo continuare a lavorare, piuttosto che semplicemente rivederci e riprendere i discorsi che ogni tanto poi ci perdiamo da una volta all'altra. In una prima fase è importante che giriamo per le città, che ci conosciamo e che capiamo quali sono le varie situazioni, però forse dovremmo provare a pensare anche in termini un po' più di medio respiro sui temi che ci sembra più importante e più utile agitare in un determinato momento. Su questo c'era non so se quelli che vengono da altre parti pensavano di stare anche domenica, ci siete anche domenica? Sì, io non ho presente, ma domenica, perché si diceva domenica mattina in Corberiera potrebbe essere l'occasione per dedicarsi a quel tempo, così non si ha il sovraccarico con la plenaria, che dopo aver fatto un mattino al pomeriggio in plenaria, dopo la democrazia interna finisce a un certo punto. Allora, io sarò primissima, che Venezia più o meno ha già parlato, e mi piacerebbe che parlasse anche Palermo, che per la prima volta è con noi, magari un accenno è proprio una prima volta, però se ci racconta un po' come andare la situazione ci fa piacere. E Venezia è come parlare dalla cancrena, però non siamo in estinzione, non vogliamo esserlo, quantomeno, quindi siamo qui per quello. E diciamo quello di cui ci siamo accorti un po' da Venezia nel percorso finora è la diversa velocità del processo. Venezia ha cominciato un po' prima e quindi è oggi a livelli molto molto avanzati, in cui il turismo ha praticamente sostituito ogni altra forma di economia alternativa. Quindi un po' il nostro ruolo in questo momento è quello di raccontare come sono andate le cose da noi e come, quando in realtà diciamo simili, vediamo delle linee di tendenza, provare a raccontare dove queste linee di tendenza, se sviluppate o non interrotte da un'azione sociale dal basso, possono poi portare. E la, appunto la, la situazione di una città che è sempre più invivibile, che sta spegnendo i suoi abitanti, quindi la situazione non è confortante, chiaramente. La, la rete SET è una realtà che in città è abbastanza conosciuta e se ne parla, però il tessuto associativo veneziano è curiosamente uno tra, tra i più vivi in Italia per il numero di abitanti. Direte che il gioco è facile perché gli abitanti sono molto pochi, in effetti è così, e ciascuno poi fa parte di almeno due associazioni, quindi siamo abbastanza distribuiti. E il problema è che curiosamente il discorso sul turismo non è così avanzato come si potrebbe immaginare, perché poi ciascuna realtà associativa si occupa di un specifico argomento. Abbiamo la sfortuna di averne molti, concomitanti, abbiamo tutta la casistica possibile, dalle crociere agli aeroporti, all'escursionismo, veramente a oggi la tassa di sbarco, quindi i problemi sono molti, affrontarli tutti non è semplice. Però piano piano come Rete 7 stiamo provando a spostare la narrazione su alcuni piani piuttosto che altri, su piani che ci sembrano più produttivi anche a livello politico rispetto ad altri che abbiamo visto magari tendono a, ad arenarsi o a concentrarsi sui soggetti sbagliati, per esempio sui discorsi che se la prendono contro il degrado generato dal comportamento turistico, un discorso che a Venezia è molto diffuso, anche lì il tentativo è quello di spostarlo su piani più produttivi, non è il singolo turista, non è il comportamento del turista, ma è l'industria che produce un certo tipo di dinamiche. La fase in cui è Venezia oggi è quella di, una, di un turismo che sta cambiando di fase, che si sta internazionalizzando e che quindi sta diventando sempre più rapidamente una destinazione di massa, di fruizione molto, molto breve, con livelli di diciamo anche internazionalizzazione degli investimenti sul turismo che sono qualcosa di non così di lunga storia in città. Quindi un fenomeno nuovo che sta cambiando anche gli equilibri interni con cui ci stiamo confrontando poco a poco con le forze che possiamo mettere in campo, ma insomma il tentativo è quello, almeno a livello di narrazione, di provare a, a far comprendere quali sono i processi reali dietro, dietro quello che stiamo vivendo. A Napoli la situazione è diversa, nel senso che il processo è iniziato in tempi abbastanza recenti, il boom turistico c'è stato nel 2015, però è un processo rapidissimo, per cui la città negli ultimi 3 anni è cambiata radicalmente. Quindi non siamo ancora a uno stadio diciamo, più avanzato come quello di Venezia, ma è molto preoccupante. È una città in cui tra l'altro c'è un numero altissimo di sfratti, siamo nel 2017 quasi a 1600 sfratti, e un numero di alloggi su Airbnb in, in costante aumento, siamo a quasi 7.160 alloggi, quindi sì, in una zona UNESCO che tra l'altro è molto ridotta, sono quasi 10 km quadrati. Per cui noi come Rete 7 abbiamo iniziato a incontrarci l'anno scorso dopo l'incontro di Barcellona, e da allora la, la rete è abbastanza cresciuta, in città se ne parla di più rispetto a prima, e anche se siamo ancora in una bolla, per cui c'è molto la retorica, prima si parlava della camorra e della spazzatura, dei rifiuti, adesso invece sono arrivati i turisti, tutti stiamo lavorando, da questa bolla e da questa narrazione stiamo iniziando finalmente a venire un po' fuori. E sono molto d'accordo con Giacomo sul fatto di lavorare sulla, sulla rete, quindi magari domenica mattina potrebbe essere l'occasione. E... sentiamo Palermo. Intanto grazie di questa accoglienza, io in realtà non parlo a nome di Rete 7 Palermo perché la Rete 7 Palermo ancora non esiste, nel senso che abbiamo avuto un primo incontro preliminare lunedì, cioè neanche una settimana fa, ed eravamo in 4 perché nel frattempo un lubrifragio ha colpito la città e giuro non sto scherzando, e la città è stata paralizzata per circa un'intera giornata. Però i problemi sono più o meno quelli di Napoli, nel senso che la situazione palermitana è abbastanza simile, nel senso che il processo di massificazione del turismo è arrivato abbastanza in ritardo, dopo anche noi siamo stati stigmatizzati come un luogo di criminalità organizzata, di non di degrado assoluto, perché comunque diciamo il sacco di Palermo che è arrivato 50 anni fa, quindi diciamo, non siamo mai stati sulla cartina dei turisti per un certo tempo. Poi circa 5 anni fa il patrimonio, cioè il riconoscimento del centro storico come intero patrimonio UNESCO ha fatto sì che la città venisse messa su vari itinerari turistici e Airbnb si comincia a muovere anche lì, non arriviamo a quei numeri lì, ma ci siamo quasi, sono circa 5.000 e quasi tutti nel centro storico è il primo si stima sia stato raggiunto più di 4 anni fa. Quindi il tasso di crescita è veramente enorme e si concentra in maniera preoccupante nel centro storico. E nel frattempo, non so come la situazione di Napoli, ma vive un fenomeno paradossale, nel senso che il centro storico palermitano è un centro storico molto poco densamente popolato in alcune zone particolari, per cui si vive questa turistificazione in maniera violenta, perché non c'è una vita quotidiana della città, in alcune parti del centro storico, mentre il turismo arriva e ovviamente impone i propri stili di consumo. Per cui le caffetterie, i ristoranti, come si diceva prima, cominciano ad arrivare in zone dove prima non si andava neanche. O dove si andava solo per determinati motivi, che potevano essere banalmente quello di reperire della droga a basso costo, per farsi due gambe. Ora, tutto questo. No, ma è vero, cioè la punto sul ridere, perché appunto è una cosa che è arrivata dalla sera alla mattina, cioè c'è stata schiaffeggiata questa cosa, come, e questo è una del paio di domande che avrei da farvi proprio perché mi sto avvicinando a sette adesso. Uno dei problemi a Palermo è che si cita costantemente la Thatcher senza dirlo, cioè non c'è nessun'altra alternativa al turismo, nessun'altra. Cioè, la città di Palermo non ha nessuna alternativa oltre il turismo, nessuno ti dice possiamo svilupparci in quest'altra maniera. E quando all'inizio della discussione si diceva come mai non c'è nessun docente di architettura, non c'è nessun docente di pianificazione, non c'è nessun docente di scienze politiche, di sociologia, è un problema di alternative. Nessuno vede un'altra alternativa al turismo, in determinate città ovviamente, perché io adesso vivo a Milano, le alternative ne hanno, magari anche troppo. Però il discorso è quello, cioè a Palermo la facoltà di architettura è la prima fautrice, come qui a Firenze diceva uno, a portare avanti questo progetto di turistificazione. Uno dei massimi esponenti della facoltà di architettura di Palermo non fa altro che dire che, ed è autore di libri aberranti sulla città aumentata, che è aumentata solo per una classe sociale ben precisa e alla quale rispondono perfettamente i criteri sulla selezione del turista che si vuole in città. Per questo poi rispondo alla domanda che mi ricordo, forse tu dicevi, l'urbanità senza architettura è impossibile, però, perché con l'architettura asservita a quel modello lì si gestisce lo spazio. Perché? E voi a Firenze ne avete un esempio con tutte le barriere architettoniche che avete fatto per primi in Italia. Cioè, porca miseria, io sono arrivato a Santa Maria Novella per la prima volta nella mia vita oggi, ho visto sulle vetrine della Feltrinelli i dissuasori con le punte perché non mi potevo, così non mi sedevo. Oh, se succede a Palermo questa cosa esce fuori, io dico, ragazzi, non si può, cioè io mi devo sedere per terra. Quindi... quando facciamo questo tipo di ragionamento non ci si può sedere per terra. Quindi quando ci domandiamo perché non vengono i professori e perché invece ci sono gli studenti e sono sempre di meno, è perché non c'è nessuna alternativa. Per cui io vi ringrazio per aver organizzato questa assemblea, domenica assolutamente di mattina cerchiamo di capire, perché io comunque lunedì quando ne abbiamo parlato ci siamo visti in pochi, eravamo veramente molto pochi, però si è detto sì, facciamola qualche cosa, vai a Firenze, vedi che cosa si dice in giro per l'Italia e ne parliamo meglio dopo. Quindi grazie tante. Diciamo bella, innanzitutto grazie. Grazie per l'invito, grazie per l'accoglienza, grazie per rincontrarci. Prima di spiegare un attimo come siamo messi. Io sono napoletana, vivo a Barcellona, quindi sono una specie di schizofrenia, giusto per metà di cose. Però prima di entrare in quello che stiamo facendo a Barcellona, introdurvi due proposte delle quali io non... che volevamo un poco pensare per creare un'azione internazionale, volevo fare due riflessioni. Una era, si è parlato molto di poca responsabilità dei turisti e responsabilità dell'industria turistica. Io francamente su questo ho molti dubbi. Se esiste il turismo, se esiste un fattore come Airbnb, esiste perché c'è una corresponsabilità sociale, tanto per chi lo propone, sia per la ragione che sia, non entriamo ora nella questione economica, di integrazione del reddito, eccetera, eccetera, sia per chi lo usa. Perché io mi trovo con molte persone che lo criticano, però mi dicono: ah, vabbè, ma non c'è un altro modo di viaggiare. Come se fino a prima che esistesse Airbnb non avessimo mai viaggiato. Quindi credo che è importante pensare che c'è una corresponsabilità sociale sulla quale dobbiamo lavorare e che c'è un lavoro pedagogico enorme da fare, perché sennò non ne usciamo. L'altra era, si parlava prima, lui parlava della questione del turismo, diciamo, che mangia male, che consuma di un certo tipo. Sono d'accordo, però anche questo è un discorso pericoloso, perché si sta facendo un discorso molto legato a dobbiamo attrarre un certo tipo di turismo di lusso e di qualità. Il problema non è soltanto se, tra l'altro, il diritto la possibilità di viaggiare deve essere legato a una questione economica. Il problema è che non esiste nessuna possibilità di conciliare il turismo con la vita se non pensiamo alla crescita turistica. E in questa decrescita turistica ovviamente l'offerta deve essere legata anche a una trasversalità sociale, e questo è un aspetto del quale volevo parlare. Poi un piccolo accenno alla questione dell'architettura. Io sono architetta e credo che, ahimè, le facoltà molto spesso diseducano e non educano, perché soprattutto sono lontane dalla realtà, e io ogni tanto ci ritorno nelle facoltà per dare lezioni, lo faccio volentieri perché credo che sia importante rompere questa barriera e cercare di raccontare che c'è un altro modo di pensare la città, che c'è un'altra necessità di farla la città. E purtroppo questa architettura e questa urbanistica è al servizio di questo capitalismo. A Napoli in questo momento si sta facendo un piano urbanistico. Cioè la facoltà è assente nel dibattito rispetto alla turistificazione, però è presente al lato delle istituzioni, laddove serve per portare avanti questo processo. Allora l'appello che faccio in questo momento così brevissimo è: mi sembra meraviglioso e necessario il lavoro che state facendo, e soprattutto che facciamo una lotta a ridare significato all'urbanistica e agli strumenti che servono per combattere questo processo. Perché credo che dobbiamo pensare a strumenti concreti per dire come regoliamo il turismo, come facciamo decrescere, eccetera. Io credo che l'urbanistica sia uno strumento che ci può aiutare. Dopodiché arrivo a Barcellona. Io non sono parte di quello del nucleo della Rete 7, che è la RETES, che è l'assemblea dei quartieri che sono a favore di un turismo sostenibile, però sì che ci incontriamo trasversalmente. Un poco perché, come a Venezia, uno di noi sta in 12.000 cose, perché poi tutte si attraversano, e dall'altro perché un mese fa circa si è creato un gruppo di lavoro, che è un gruppo per la decrescita turistica, nella quale siamo entrati molte persone che vengono da altri ambiti, e abbiamo fatto una sola riunione, è stata molto molto bella, molto molto potente, c'è gente molto potente dentro, e l'idea è iniziare a lavorare, a riflettere per capire come si deve ricrescere, perché questo è di una città che è collassata, è come la coscienza che se non lavoriamo su quello non c'è nulla che altro sul quale possiamo lavorare. E mi aggancio a una cosa che in realtà non nasce nell'ambito del gruppo di decrescita, però si nasce nel movimento per la lotta alla casa, che sono due iniziative che voglio proporre, semplicemente anticipare, e poi ne parliamo domani, magari se potessero essere integrate nei tavoli di lavoro come proposte potrebbe essere interessante. La prima è il 6 aprile a Barcellona stiamo organizzando una manifestazione sulla bolla degli affitti. È una proposta che viene da Berlino, che noi abbiamo preso e sulla quale abbiamo iniziato a lavorare per fare una manifestazione dove il concetto d'affitto non è solo il concetto d'affitto standard, ordinario, se non anche l'affitto turistico. È ancora tutto da definire, però l'idea era comunque approfittare questo, anche perché in Spagna siamo con tre scenari elettorali contemporanei, che saranno le statali a fine aprile, e europee e locali, municipali a maggio. E credo che come collettivo e come rete dobbiamo pensare anche alla questione politica. Cioè c'è un momento in cui ci sono gli scenari politici, che non significa scenari di partito, se no la possibilità di visibilizzare un disagio, un problema, una lotta, quello che sia. E che questo potrebbe essere un'occasione per farlo. Quindi la prima ipotesi, considerando anche che lo stesso giorno ci sarà la riunione della rete SET a Spagna, a Siviglia, perché Siviglia il 6 aprile c'è una cumbre, una riunione dove si parlerà di turismo, loro volevano organizzare una contrazione, quello sarà il momento in cui la rete SET Spagna si riunirà. Però il resto, diciamo, le altre città stiamo organizzando questa manifestazione. E questa è la prima proposta. La seconda proposta, considerando che la prima è un po' accelerata in quanto a tempi, è due anni fa si creò un collettivo a Barcellona che si chiamava Barcellona Nostra Inventa, che tiene molto a che fare con la frase della quale parlavamo prima. È un collettivo che ha avuto una vita non facile, però aveva un grande privilegio, un'enorme, enorme trasversalità, gente veniva da tutti i settori più disparati, quindi con la bellezza di questa eterogeneità e questa potenza, con una difficoltà a livello assembleario abbastanza significativa. Dopo una fase di inflessione che è stata quella degli ultimi mesi, ci siamo tornati a ritrovare due settimane fa con l'idea di fare qualcosa, nel senso di ripensare a che cosa, come utilizzare questo momento politico. E la proposta qual è? E io la presentavo qui perché credo che si potrebbe pensare come proposta internazionale, anche perché se non lottiamo il turismo alle differenti scale, la comunale, le regionali, la statale e l'europea internazionale, non credo che andremo molto lontano. E quindi è importante pensare qualcosa che ci aiuti a visibilizzare. Non esiste ancora una proposta concreta, io venivo qui a farla anche per capire che ritorno ci fosse e per riportarlo a Barcellona per dire sì, abbiamo forza per fare un'azione. L'idea è fare qualcosa a maggio, probabilmente nella settimana pre-elezioni, per scegliere magari un atto molto semplice che può essere un'azione concreta a partire dallo slogan qualsiasi sia la città, non sta in vendita. E esiste già un manifesto che facevamo allora, cioè due anni fa a Barcellona, e che vogliamo riattualizzare, che potrebbe essere anche un elemento che ciascuna città fa proprio, lo declina rispetto alle proprie problematiche. E potremmo pensare un'azione congiunta alla stessa ora, della stessa tipologia, per visibilizzare tutte le città che aderiscono, perché non siamo in vendita. E questo, poi domani se volete ne parliamo ora per non monopolizzare. E poi chiudo con due cose. Si parlava prima di un cancro. C'era uno slogan di molti anni fa che a me ritornava alla mente in questi ultimi mesi, che era prevenire meglio che curare. Non accettiamo per favore il discorso di espandere il turismo e allargarlo in altre zone che non sono saturate. No, prevenire è meglio che curare. È un cancro, non si può diffondere. Lo dobbiamo combattere prima ancora che si diffonda. E secondo me questo è una cosa che dobbiamo tenere in mente. E l'ultima era, c'è una riflessione molto bella, si è parlato della rete, io credo che la potenza della rete, se ne parlava prima, è importante, tra l'altro una rete che effettivamente si sta espandendo velocemente, ed una rete di umanità, non è solo una rete che mette in mezzo con poche risorse, cerca di fare molto. La rete, purtroppo le altre sono molto, molto più forti e molto più veloci, e credo che anche in questo dobbiamo cercare di capire come creare strategie oltre che rete. E per chiudere volevo solo dire, vorrei ricordare che c'è stato un discorso molto bello di una filosofa a Barcellona, e lei chiudeva sulla questione delle reti e diceva le reti o le ragnatele sono elementi molto belli perché anche se si rompono in un punto si possono sempre ricostruire da un altro, per cui sono elementi che continuamente si rigenerano e che al tempo stesso vibrano, e se vibrano hanno vita. E con questo niente. Adesso qua faccio due domande giusto per i prossimi tentativi di Milano, per capire come muoverci un attimo. Diceva Clara all'inizio, poco fa, anche tu, che Venezia per esempio ha una rete associativa molto forte, ecco, Palermo non tanto. E da qui viene, no, davvero, cioè siamo no, no, no, l'associazione ti uccide, cioè ti giuro, è una situazione terribile, nel senso che le poche realtà associative palermitane sono delle realtà associative che sono aberranti, ve lo giuro, cioè sono veramente personali, non lo so, però cioè, esatto, quindi intanto il collegamento, se perché sentivo voi con la rete, Venezia con la rete associativa, voi con la rete degli studenti, mi sembra di capire che avete un rapporto abbastanza stretto qua a Firenze. A Napoli era una domanda che avrei voluto fare. Io conosco come esperienza, perché ci sono passato per un paio di giorni per il TG, è un'altra serie di costi, volevo capire se anche voi avevate un appoggio presso le reti associative, non particolarmente con l'ex-OTG, è un esempio, le faccio, non mi interessa. Associative? No, associative di tutti i tipi, cioè dagli istituzionalizzati agli spontanei, ma stiamo parlando di comitati di quartiere, non mi interessa che siano riconosciuti all'albo, ecco, cioè, non me ne frega. No, no, no, cioè, non, assolutamente, dallo spazio occupato, che è un punto in città, al comitato di quartiere, che ha un minimo di voce all'interno di uno spazio, anche dell'isola, non mi interessa che ci sia disaccordo con il progetto. Secondo, siccome secondo me, cioè, no, Palermo ha cominciato circa tre anni fa ad andare dritta, forte e spedita, tra quanto lo devo aspettare? Perché le differenze sono tante, vorrei sapere. Allora, sulla questione di Istat ne parleremo poi, credo, ampiamente domani o domenica, insomma, vabbè, per capire un po' il funzionamento. Allora, l'idea di Istat nasce così, nasce in modo assolutamente spontaneo e al bar dove di fronte alle birre succedono le migliori cose, e nasce appunto in un'assemblea condivisa in cui erano presenti Madrid, Barcellona, Palma e, diciamo così, non spagnole, Lisbona e Venezia, sempre perché siamo il caso numero uno della World Certification. Allora, nasce, diciamo, nelle serie di cavolo, però come siamo presi male tutti, no? Come è uguale, no? Questo mondo che abbiamo di fronte, benissimo, perché non cominciamo a ragionare, a darci anche degli strumenti, non solo di intervento, ma anche di analisi rispetto a quello che sta succedendo. E nasce in questo modo, e anche con una consapevolezza. La consapevolezza è che questo processo di turistificazione, cioè questa trasformazione delle nostre città in un consumo turistico, è una cosa che accomuna non tutte le città del mondo, ma comuna soprattutto le città di una certa area, prima mi diceva il docente, no? Quindi stiamo parlando di città del sud Europa, in cui, come dicevi tu, a Palermo si dice non c'è alternativa, cioè il turismo sarà la nostra soluzione. A Napoli c'è gente che dice: ah, finalmente, no? Posso affittarmi casa, posso trasformare il mio bar in questo, perché finalmente posso guadagnare. Allora, in questa ottica di investimento del capitale in un certo tipo, cioè in città che stanno in una certa zona, ecco che ci siamo rivisti e riconosciuti, e da lì nasce come nodi, cioè nasce non come set Spagna, anche perché in questo periodo di sovranismo io stai molto attenti a riconoscerci come un'identità nazionale, ecco, nasce proprio come città e territori, ci sono anche dei territori che appunto sono più ampi, che decidono di, scelgono di aderire, diciamo così, a un manifesto comune, del manifesto di Sette, e basta. Questo è. E ogni territorio, ogni nodo decide e trova, diciamo così, al suo interno delle forme di organizzazione, auto-organizzazione, in cui diventa, diciamo così, un nodo Sette. L'idea del manifesto, noi l'abbiamo molto voluta, fortemente, diciamo, portata avanti a Venezia, eravamo presenti, abbiamo chiamato gli amici di Firenze, Napoli, insomma, alcune persone, abbiamo cominciato a dire possiamo cominciare a ragionarci, e l'idea di creare, diciamo così, un nodo non sovranista, ma un nodo, diciamo così, italiano, è perché ci siamo resi conto che, nonostante il processo di turistificazione delle nostre città sia molto avviato, non è così forte, diciamo, nell'analisi e nell'intervento. L'esempio che faceva Clara prima è fortissimo. Noi a Venezia abbiamo una grandissima associazione, ognuno si occupa di un pezzettino delle conseguenze del turismo a casa nostra. Allora abbiamo le navi da crociera e ragioniamo non tanto sul turismo, ma sull'impatto ambientale che queste navi hanno, che però hanno a che fare col turismo, perché altrimenti non hanno. E la stessa cosa sulla casa, la stessa cosa sulle infrastrutture, la stessa cosa sulla vita del patrimonio. In realtà a noi, diciamo così, non è che serve creare un cappello a tutte queste cose, ma cerchiamo di costruire un tappeto perché tutte queste cose siano leggibili insieme, per cui non saremo un noto set veneziano, ma sicuramente partecipiamo insieme ad altri a questa cosa. Quindi diciamo non ci sono delle assemblee set, ma ci sono tutta una serie di assemblee che comunque questi punti toccano e che sanno che c'è, diciamo, questo tappeto che ci porta. Però questo credo che stia nell'autonomia e nelle specificità di ogni, non so se sono in casa, no. E questa è la prima domanda. E la seconda domanda è: ieri, cioè quando noi ce ne accorgiamo è già tardi, cioè quando noi ci rendiamo conto che un processo di turistificazione sta andando avanti, dobbiamo trovare gli anticorpi da ieri, cioè dal giorno prima, perché il processo è rapidissimo e soprattutto la narrazione di questo processo è importante, perché ci ritroviamo a combattere, appunto, a dire a discutere, a non renderci conto di quello che sta succedendo nelle nostre città, di quanto diventino invivibile, non perché c'è la fila, ma perché non ci sono le case, perché le case costano troppo, perché c'è l'aeroporto che raddoppia, perché ci sono le offerte di Trenitalia che mi fanno venire le persone a 9,90 euro nel periodo estivo con la calca così. Allora le città diventano veramente, dobbiamo allarmarci. Ti rispondo sulla domanda riguardo Napoli. Noi siamo partiti con, diciamo, chiamando alle armi una serie di persone che venivano dai vari spazi, dai vari movimenti. All'inizio c'era anche l'OPG, qualcuno dell'OPG che al momento ci legge e ci tiene d'occhio ma non partecipa. E ci incontriamo una volta a settimana con un'assemblea di set, ma con una serie di persone che fanno parte di altre realtà, di altre associazioni, e una serie di cani sciolti, ricercatori, cittadini attivi, residenti del quartiere. E questa cosa, tra l'altro, negli ultimi mesi si è ampliata tantissimo, per cui se all'inizio erano poche persone che provavano a costruire un discorso integrato sul turismo, e quindi non parlare soltanto del lavoro precario che generava, o della questione casa, o dello spazio pubblico, ma provare a leggere in che modo stesse impattando sulla città, e ci guardavano un po' come dei personaggi tristi e intellettualoidi solitari che volevano rovinare la festa, come dicevi un po' prima. Adesso invece iniziamo ad essere degli interlocutori. Prima eravamo il tizio che ti disturba il servizio al TG quando ti scriva dietro, adesso invece ci chiamano e ci dicono: perché non venite? Noi vi seguiamo tantissimo, complimenti per il livello del dibattito, perché non venite anche voi al tavolo, alla giornata, eccetera. In più aggiungo che quello che dicevi prima su Palermo è molto vero, come dicevi anche per Napoli, cioè che chiamiamolo il livello di consapevolezza anche dell'università, del dibattito culturale. Per noi è stata una grande fatica far entrare un certo tipo di allarmismo sulle esternalità negative del turismo, perché tutti quelli che tu eri abituato a vedere anche come i tuoi alleati, i tuoi più simili, erano felicissimi, te la raccontavano come una grande opportunità, una grande risorsa, la svolta, finalmente, e tra l'altro la legavano in modo quasi conseguenziale al fatto che Napoli stesse vivendo una rinascita culturale, no? Sì, esatto, cioè quasi come se... Esatto, il che però si ricollega molto a quello che diciamo prima, cioè che l'industria turistica alla fine ha questo di... subdolo e rischioso, che è in grado di monetizzare, sussumere e mettere a valore quello che tu crei a livello di pratiche, di relazioni, cioè tu involontariamente crei un substrato di quella che poi loro chiamano cultura locale, che però si vuole, no? Ferma e assolutamente immobile, che non si contamini, e la mettono in vetrina e ci mettono un prezzo e se lo beccano loro. E questo, come veniva detto prima, dicevi forse tu, Arve lo spiega molto bene, cioè si carica a livello simbolico il capitale simbolico dei luoghi e poi se ne aumenta il valore di scambio in qualche modo. Questa cosa da noi nelle facoltà non è arrivata, non è arrivata all'architettura, quindi in termini di pianificazione urbanistica non si ragiona assolutamente in questi termini. Sociologia, che ci ha invitato questa settimana, andiamo a parlare giovedì 7 andiamo a sociologia alla Federico II a Napoli e loro hanno organizzato un incontro nel quale si parla dei possibili rischi, ma sostanzialmente di quanto è bello il turismo. E il tizio che ci ha chiamato mi ha chiamato e mi ha detto al telefono: ma io vi invito perché so già che adesso sono d'accordo perché Napoli ha bisogno di aria, di lavoro, di respirare, ma so già che tra 5 anni non sarò d'accordo. E questo insegna sociologia del turismo al momento alla Federico II. E tra l'altro sociologia però si è inventata una roba che si chiama fascio tour. Fascio tour. Cioè loro fanno gli spin-off, le start-up, le app, le cose per rilanciare, cioè, quelli che escono dalla sociologia. Per esempio giovedì ci fanno parlare con un ragazzo che è un loro ex dottorando di sociologia che adesso fa l'alberghiatore in pieno centro ed è secondo loro la nostra controparte nel dibattito, no? Per dire l'università su che temi si sta muovendo. Non sarebbero quelli che mi ospitano per la zia Scombinano. Però su questo secondo me noi tu a Palermo, noi a Napoli, cioè io credo fortemente che, ma anche a Napoli si è detto spesso, che il livello di consapevolezza dei luoghi è direttamente proporzionale a quanto ti è venuta addosso questa roba, no? Noi nel giro di un anno a Napoli abbiamo visto crescere il dissenso perché la cosa cominciava a diventare un po' più evidente, però quando è un po' più evidente è già molto più difficile correre ai ripari. Se ci fossimo mossi 3 anni fa, quando noi abbiamo cominciato ad alzare la voce, adesso avremo meno il fianco scoperto, però per questo dobbiamo cercare un modo di arrivare in territori, non solo in città, ma proprio in territori, perché quella cosa che si diceva prima di naturalizzare il fatto che l'unica fonte di sviluppo sia questa e che la vocazione dei territori è questa, che noi non abbiamo altre fonti di sostentamento e di lavoro in certi luoghi, in certe città, vale per le città del sud, vale per Napoli, vale per Palermo, varrà per Matera, ma vale anche per le aree interne, i borghi, esattamente. Cioè, adesso il mantra è: devi fare turismo. Se sei in una zona con un paesaggio, con una forte naturalità, ti dicono: vabbè, fai turismo sostenibile, ovviamente. Che anche qua, che cos'è questo turismo sostenibile? Esatto. Però la sfida adesso è far sì, cioè a me da napoletana mi è sempre sembrato particolarmente ridicolo che nel 2018-2019 in certi posti non fosse così scontato dire che è un problema, che va regolamentato, cioè la fatica che fa in certi posti nel 2019 per far capire certe cose è il primo punto di reale allarme. Però a questo punto la rete ha il pregio di farti confrontare con chi già è a un livello di consapevolezza e di non di, diciamo, di problema irreversibile, ma di consapevolezza e di pratiche, di contropratiche e di ragionamenti molto più avanzati, e quindi può in qualche modo correre ai ripari prima. E da questo punto di vista, secondo me, ha molto senso rafforzare il funzionamento della rete, cioè far sì che le varie realtà locali possano in qualche modo far leva sul fatto che ci sono altri che quando tu alzi la voce ti danno una mano, ti sostengono, perché altrimenti appunto se sei solo tu a Palermo, come eravamo noi da soli qualche tempo fa, 3 anni fa, fai una fatica. Quindi abbiamo già visto e delineato appunto le varie difficoltà da chi l'ha già persa perché sono 200 anni che ci sono i turisti, a chi l'ha già persa perché appunto sono appena arrivati, però appunto ha sviluppato porta avanti pratiche nel proprio territorio. Credo che si impari sempre. Noi quando siamo andati per esempio a Venezia, appunto, abbiamo visto sia il discorso dell'autorecupero dell'abitazione, mi ha scoperto cose che comunque contrario, nel senso anche sul fatto di dire Venezia è spacciata, cioè Venezia è spacciata perché non riesci, perché Venezia è così grande e intricata che non riesci neanche a trovarli neanche te, che non sei un turista stupido, perché loro sono così bravi, si sono rintanati. E poi loro hanno delle cavi da un metro, non vuol dire a sgomberare con delle cavi da un metro, no? E quindi c'è, cioè, nel senso, ci sono tutte delle cose che vanno capite, confrontate, e sono molto interessanti. Infatti.